tracciabilità dei prodotti alimentari lungo la filiera alle automobili, quindi il fatto che le automobili che guidiamo siano localizzabili e registrino le informazioni relative ad esempio allo stile di guida, raccogliendo tutta una serie di informazioni utili per fini assicurativi, piuttosto che le città intelligenti, dalla gestione della mobilità alla gestione dell'energia, piuttosto che telecamere che identificano, grazie all'elaborazione delle immagini, situazioni di potenziale criticità e avvisano le autorità competenti, piuttosto che il monitoraggio dell'ambiente, quindi sensori che sono in grado di identificare l'insorgere di incendi piuttosto che di frane. Il retail, in particolar modo la grande distribuzione, lo accennava prima, è uno dei settori di applicazione forse anche più immediati. Che cosa è possibile immaginare in questi supermercati del futuro grazie all'Internet delle cose? Da un lato, grazie all'Internet delle cose, un ambito di applicazione è quello della tracciabilità di filiera e quindi il fatto che tutta la merce, i prodotti che troviamo all'interno dei supermercati siano garantiti e possiamo essere in grado di conoscere tutta la loro storia dai campi, come si suol dire, quindi pensiamo a una bottiglia di vino, quindi a riconoscere tutta la storia da quello che è stata la parte più vicina all'agricoltura e al vigneto fino ad arrivare alla nostra tavola. In questo grazie a che cosa? Tipicamente delle etichette che si chiamano RFID, quindi identificazioni a radiofrequenza, che sono in grado di registrare le informazioni a ogni passaggio tra un attore e l'altro della filiera e quindi ci consentono di conoscere tutta la storia del prodotto. Altro ambito di impiego invece è quello del monitoraggio delle condizioni in cui si trovano i prodotti, quindi tutto il tema di monitoraggio della temperatura, particolarmente importante quando parliamo di prodotti alimentari freschi o surgelati, e quindi la garanzia grazie alla presenza di sensori anche qua lungo il processo distributivo, ma anche nei punti vendita, pensiamo ai monitoraggio dei banchi frigo. Queste sono applicazioni che sono già state avviate da alcuni retailer per avere la garanzia che i prodotti venduti ai consumatori siano conservati in modo corretto. Nel punto vendita del futuro ci saranno una serie di cosiddetti smart objects che potranno essere il carrello, lo scaffale, la nostra carta fedeltà, che ci consentiranno di fare in modo diverso tutta una serie di operazioni, dalla scelta dei prodotti al percorso interno ai supermercati fino al pagamento. Ecco, questo è uno scenario vicino. Per quanto riguarda il pagamento, le evoluzioni che ci possiamo attendere sono tutte quelle legate al mondo del pagamento anche tramite telefono cellulare, che è un oggetto intelligente per definizione che già la maggior parte di noi ha nelle proprie tasche. Ecco, l'evoluzione è poter far diventare il telefono cellulare uno strumento di pagamento e quindi agevolare presso il punto vendita tutta una serie di attività, quindi avere sullo stesso strumento la carta fedeltà, ma anche simulare la carta di credito, quindi non dover più girare con 800 carte fedeltà diverse nelle nostre tasche, ma avere tutto su un unico strumento. Ecco, questo è un fronte su cui si sta lavorando molto e che inizia pian piano a smuoversi. Per quanto riguarda invece il carrello intelligente, negli anni passati si è sentito molto parlare della possibilità sostanzialmente di saltare la barriera delle casse con un carrello in cui tutti i prodotti fossero in grado di essere identificati in automatico. Ecco, questo è invece qualcosa di molto lontano. Quello che invece è più vicino è pensare che alcuni di questi prodotti, quelli a più alto valore, siano dotati di strumenti che consentano, appunto, come dicevo prima, di garantire la loro originalità. Ho fatto l'esempio del vino, ma vale lo stesso per i prodotti dell'elettronica di consumo. Le aziende in questo senso stanno lavorando molto, mentre per quanto riguarda i carrelli, quello che si sta valutando è la possibilità di monitorare i flussi, gli spostamenti, anche in maniera ovviamente anonima, delle persone all'interno del supermercato, proprio per andare a comprendere meglio come avviene il processo di spesa, il processo di acquisto, e quindi andare